signore e signori, ho il dispiacere di introdurvi la star di Torino. Veniamo a prendere i biglietti, che si ascolta la musica elettronica. Tieniti il culo, vai, che adesso si parte. Spingo Boys, noi del giorno d'oggi. Voi come moce dove alloggi? Se ti sporci nel degrado dei bonci, cosa scorgi se non ti accorgi che ti prendo per il culo e se fai duro sloggi? Torino non ha gensa, ho gente da favela. La gente che ti pensa si testa la falchera. Stasera si fa festa con le peli da galera. E chi ci resta? La resta la pantera nera. Ma Torino avanza dalla zoccola alla santa. Spallanca, gli manca la spina con la minchia tanta che ti sbanca. Ti manda sarabanda, peggio di un caramba. In reggio pette tanga e voglio fare rap allegro. Nego rap da negro, collego sono americana all'italiano medio. Non vedo l'uscita per novità e non mi piego. In vita sta partita è una tua amica che la leggo. No, oh. E noi spingiamo perché siamo Spingo Boy. Sai, le robe mosce le lasciamo a voi, a voi. E l'altra faccia di Torino, fanculo Eiffel 65 e Cici d'Agostino, oh no. E noi spingiamo perché siamo Spingo Boy. Sai, le robe mosce le lasciamo a voi, a voi. E l'altra voi, faccia voi, di Torino, fanculo Eiffel 65 e Cici d'Agostino, no. Busan Boys se vibrano i Goodfella. La roba che ti ascolti ma noia come Fiorella. Non sono in molto a culo ingoia tua sorella, ma sono a volte dalla noia in caporella. Ma novità non si accontenta allerta. E c'ho carattere di merda che magari ti spaventa. Sto fumando erba, parlo troppo si spenta. Abbiamo stile che smerda, chi non ce l'ha non entra. Non sono un gangster ma nemmeno un buon uomo. E visto che mi giudichi, dimmi tu chi cazzo sono. Dicono che sono smania pieno di me, ma io sono on fire pieno di cabernet. E se sei un fighetto e ti alzi col letto, io prima te lo abbasso poi ti giro berretto. E anche se son secco, io ti faccio secco. Rappresenti calci in bocca e pugni ad effetto, oh. E noi spingiamo perché siamo Spingo Boy. Lo sai, le robe mosce le lasciamo a voi. E l'altra faccia di Torino, fanculo Eiffel 65 e Cici d'Agostino, oh no. E noi no, spingiamo perché siamo Spingo Boy. Lo sai, le robe mosce le lasciamo a voi. E l'altra faccia di Torino, fanculo Eiffel 65 e Cici d'Agostino, no. A Torino non so, sono Falcotto, non Berti Crodino che poi ci vai sotto. Io fingo l'arrocco, colpo al ginocchio. Ti rubo portafoglio alla collana, fai occhio. Siamo fatti così ragazzi di Torino, ai Murazzi, giochino marocchino. Siamo fatti così, troppissimo casino. Noi vi tiriamo giù come il muro di Berlino. Torino operaia, basta con questo trend. Mista su cazzo che esce solo nel weekend. Chi soffre lo stress sono in una boy band. Ma appunto su di te come lo zio Sam. E questo non è un business ma come vivo. Concimiamo ganja in modo radioattivo. Insieme a giovanotti noi facciamo aperitivo. Ma penso positivo se mi porti la white widow.